Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Un benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Forse non tutti sanno che durante le frenate treni e metropolitane producono energia elettrica, esattamente come fanno auto ibride ed elettriche, per esempio, che usano questa energia, come è noto, per ricaricare le batterie. I treni invece immettono questa energia nella rete elettrica, sperando che ci sia un treno nelle immediate vicinanze che possa farne uso. Se questo non accade, l'energia viene semplicemente buttata via, dissipata da apposite resistenze. Si tratta di quantitativi ingenti di energia che possono fare la differenza nei consumi energetici ferroviari, e così per evitare questo spreco è partito il progetto MyRails, acronimo di Metrology for Smart Energy Management in Electric Railway Systems, progetto finanziato con 2 milioni e mezzo di euro dal programma Horizon 2020 e da Euramet, che è l'associazione che riunisce gli istituti meteorologici europei, per un totale di 16 tra appunto questi istituti e gestori delle reti ferroviarie e metropolitane del continente, questi soggetti coinvolti. A coordinare il progetto MyRails c'è l'INRIM, l'Istituto Nazionale di Meteorologia, di cui abbiamo in linea il ricercatore e anche coordinatore del progetto, Domenico Giordano. Benvenuto a Smart City. Salve, salve, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, il progetto è stato avviato proprio oggi. Allora, ci spieghi, Giordano, come funziona attualmente, per cominciare, la gestione energetica lungo le linee ferroviarie? Sì, in Europa abbiamo diversi sistemi di alimentazione delle reti ferroviarie. Soffermandoci all'Italia, come sapete, i sistemi ad alta velocità sono alimentati in corrente alternata e in questi casi i punti di alimentazione sono cosiddetti reversibili, cioè l'energia elettrica può fluire dalla rete di alimentazione al sistema ferroviario e viceversa. In queste condizioni un treno che frena produce energia elettrica, la quale può essere tranquillamente reimmessa nella rete nazionale. Quindi sulla rete ad alta velocità non c'è questo problema. Il treno frena e non si spreca mai energia. Mentre esatto, questo problema c'è per le altre linee, quelle tipicamente d'Italia, per esempio regionali e locali. Sì, esatto. Allora, che cosa succede quando c'è un treno che frena e quindi produce energia elettrica, ma non c'è un altro treno nelle vicinanze in grado di assorbirla? Succede quello che può succedere quando abbiamo un invaso in cui c'è un solo immissario e non ci sono emissari. L'acqua continua a fluire e il livello dell'invaso sale. Nel sistema ferroviario, nel sistema elettrico, questo si trasforma in un aumento della tensione di alimentazione, che può essere dannoso. Certo, c'è una tolleranza delle linee elettriche che arriva a un certo punto, quando si raggiunge un certo livello di tensione, lì per ragioni di sicurezza il sistema la butta via tutta l'energia che può. Esatto, la trasforma in calore attraverso reostati che sono piazzati sul tetto di una locomotiva. Questo succede sia per il sistema ferroviario sia per il sistema metropolitano. E tra l'altro tutto questo calore dissipato dai treni è un inconveniente non da poco. Sì, nel sistema metropolitano londinese la temperatura, soprattutto d'estate, sale molto. E infatti fa un gran caldo lì, chiunque c'è stato lo sa benissimo. Ecco, quindi come si risolve questo problema? Sì, installando la tecnologia odierna mette a disposizione delle nuove centraline appunto reversibili, che permettono al flusso di energia di andare sia dalla rete di alimentazione al sistema ferroviario che viceversa, e quindi questa energia può essere utilizzata per utenze domestiche, per utenze industriali e quant'altro. Ecco, stiamo parlando di una quantità di energia che non è ben nota, e uno degli scopi del vostro progetto è proprio arrivare a dei numeri precisi, ma che si aggira intorno a quali percentuali? Sì. A seconda della tipologia di traffico possiamo andare dall'11 al 20% dell'energia utilizzata nella trazione. Senta, adesso il progetto come si articolerà? Quali sono i principali passaggi? Allora, per quanto riguarda questo argomento, avremo un'attività congiunta con la metropolitana di Madrid, che ha intenzione di installare queste nuove centraline. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare sistemi di misura in grado di stimare innanzitutto quant'è l'energia che è possibile recuperare e poi andare a verificare post opera quant'è l'effettivo risparmio di energia in modo affidabile. La stessa cosa verrà fatta per il sistema ferroviario italiano. In questo caso non ci sarà l'installazione di nuove sottostazioni o centraline reversibili, ma l'obiettivo è quello di quantificare quant'è l'energia che potremmo risparmiare. Potenzialmente risparmiabile. Potenzialmente. Ecco, non c'è questa installazione perché nemmeno esistono attualmente tipo di centraline. Ci sta arrivando. Ecco, perché servono centraline molto potenti per i treni più che per le metropolitane. Esatto. Ecco, senta, il progetto MyRace però ha anche diversi altri obiettivi che peraltro non sono secondari. Sì, esatto, abbiamo tre obiettivi correlati fra loro che riguardano innanzitutto la stima esatta della quantità di energia assorbita dal treno, perché dal 2019 l'energia verrà fatturata sulla base del reale consumo. Agli operatori, mentre oggi pagano un forfè. Esatto. E poi ci occuperemo di stimare in modo accurato l'energia risparmiata grazie all'eco-driving. E infine cercheremo di porre le basi per una maggiore interoperabilità nel sistema ferroviario europeo. Ecco, proviamo ad approfondire questi punti. Intanto c'è un tema di misura proprio del consumo di energia, ci spiegava, di questi treni, che non è così semplice. Dove sta il problema? Dove sta la difficoltà? Perché insomma noi tutti a casa abbiamo il nostro contatore, no? Sì, per esempio. Esatto. La tensione di casa nostra è una tensione molto stabile, abbiamo 220 volt con piccole oscillazioni. Nel mondo ferroviario le cose sono molto diverse, possiamo avere oscillazioni molto più ampie, ad esempio nel sistema in corrente continua può andare da 2000 a 4000 volt. Caspita. E quindi è necessario mettere a punto delle tecniche per caratterizzare i misuratori di energia in modo accurato ed è molto importante che tutta l'Europa abbia le stesse regole. Certo. Per evitare diciamo che ci siano fenomeni protezionistici, quindi se siamo d'accordo tutti quanti su come misurare l'energia elettrica si eviterà che qualche paese si inventi qualche regola, qualche normativa tecnica, no? Che per piccoli dettagli di normativa tecnica che magari ruotano intorno a questioni di come ho misurato una tensione piuttosto che una corrente, quelli dice, il risultato è che gli operatori del trasporto cercano, e lo fanno tutti, diciamo questo, cercano di sfruttare queste robe per bloccare, per impedire a un operatore magari straniero concorrente di venire sul proprio territorio. L'Unione Europea cerca di contrastare questo modus operandi perché l'idea è quella dell'interoperabilità, di avere un sistema ferroviario paneuropeo. E qui vediamo che l'Europa non si occupa solo della lunghezza delle banane. Grazie Giordano. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento come sempre a domani. Buona serata.